9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, Oscar Gino qui in diretta ai microfoni di Radio 24 in questo 21 di marzo. Avete sentito, per chi di voi ha sentito il giornale radio prima della pubblicità e prima dell'inizio della mia trasmissione, che abbiamo rilanciato fonte che ci viene da Twitter, da onorevole Vernetti di Torino, secondo la quale era ricoverato alle Molinette Alberto Musi, fatto oggetto di un agguato e con dei colpi di pistola che lo hanno colpito. Nel frattempo noi abbiamo avuto la conferma da Vernetti che è andata così. Per il momento nessuna agenzia ha battuto ancora niente e ovviamente appena sapremo qualcosa intorno alla matrice di questo episodio, alle condizioni di salute di Musi, ve ne informeremo. Ricordo a tutti che Musi era stato nella vicenda che ha portato poi alle elezioni a Torino che hanno visto Piero Fassino diventare sindaco della città, è stato il candidato, l'ipotesi di candidatura sulla quale il terzo polo, il polo della nazione si era indirizzato. Musi ha un'esperienza sia di professore universitario a cavallo tra Stati Uniti, Canada e Italia e si è poi impegnato però comunque nella società civile, nel movimento per esempio di Nando Dalla Chiesa, e poi era diventato appunto una specie di erede dell'esperienza, del tentativo che si era coagulato in città intorno alla figura del rettore del Politecnico Profumo, che oggi è ministro nell'attuale compagine di governo. Appena ne sapremo di più, naturalmente ve ne informeremo. Per il momento queste sono semplicemente concitazioni di notizie che vengono naturalmente dal mio ricordo di torinese. Speriamo che non sia niente di grave, che non sia collegato a vicende politiche, che non sia collegato in nessun caso alle cose di cui ci occupiamo invece nell'informazione politica quotidiana. Non riuscirei a immaginare quale nesso potrebbe esserci né con la riforma del mercato del lavoro e l'articolo 18 né con nessun altro tipo di vicenda, ma tuttavia ve ne informeremo. Nel frattempo la puntata di oggi è dedicata a ciò che comunque ogni giorno nelle nostre cronache conferma che viviamo in un paese di temperatura molto elevata. Si sarà sfreddato l'allarme dell'eurocrisi con l'abbattimento degli spread, è d'accordo, però le cronache di questi giorni non fanno altro che proporre il moltiplicare di vicende che riguardano scandali e tangenti politico-amministrativi, dalle vicende e dal numero di avvisati in termini di avvisi di garanzia al Consiglio regionale Lombardo, con l'ipotesi su cui lavora la procura di coinvolgimento Lega PDL, alle indagini che riguardano il sindaco di Bari, il progressista Emiliano, con palazzi costruiti per edilizia anche popolare, dati invece a magistrati e amici degli amici, e vasche di pesce e di cozze pelose, c'è anche il colore su quello, che imbarazzano il fronte progressista e spaccano e dividono anche il PD pugliese sulla figura del sindaco Emiliano, all'indagine che ha lambito e coinvolto Errani in Emilia Romagna per il milione di euro dato alla regione Emilia Romagna nel 2006 a una cooperativa guidata dal fratello per un progetto immobiliare, alla retata dei 16 magistrati tributari ieri fuori la provincia di Napoli. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta nel fiorire quotidiano che ha indotto il capo dello Stato a lanciare un appello per la moralità della politica. Allora, prima di presentarvi gli ospiti, vi aggiungo che io vedo tre rituali, classiche reazioni al moltiplicarsi di vicende di questo tipo nella vita politica italiana da molti anni a questa parte. C'è una vicenda sulla quale non mi pronuncio, è perfettamente legittima, non mi convince, ma capisco benissimo che possa attecchire, che è quella, per così dire, ispirata allo scandalo della virtù. E la reazione virtuista è quella che si lascia andare a tirate di sdegno molto pronunciate nei confronti di politici coinvolti, nei confronti degli amministratori coinvolti, e propone rifondazioni morali. Io tendo a crederci poco, perché pur con tutto il rispetto è ovvio che questa è una reazione immediata che scatta, ma non credo che l'uomo nuovo si realizzi in questa terra. Ma capisco benissimo questo tipo di reazione. Poi c'è una seconda reazione, che è profondamente incardinata nei nostri ordinamenti, che nasce in realtà da riflessione dal primo, per così dire, grande sociologo economista tedesco, che ha fatto fare un passo avanti all'analisi dei comportamenti degli attori pubblici in campo economico e sociale. Sto parlando di Max Weber, che nel suo Politica als Beruf, cioè politica come sia come vocazione sia come professione, perché questo è il doppio significato che in tedesco ha la parola Beruf, ci ha fatto per la prima volta riflettere su quali siano le possibili derive negative del pubblico amministratore e del politico. E Max Weber, per evitare il Max Politiker, cioè il politico di potenza, quello che bada solo demagogicamente a confermare ed estendere il proprio potere attraverso l'uso della macchina pubblica, ispira nei nostri ordinamenti tutto ciò che nelle democrazie moderne welfariste si tenta di usare come argine a questa cosa. Ci sono delle garanzie ex ante costituzionali, per esempio nella nostra Costituzione l'articolo 97, quello che prescrive l'imparzialità e l'indipendenza della pubblica amministrazione rispetto alla politica, e poi naturalmente ci sono batterie di fattispecie penali nei codici penali e di sanzioni che vengono, che derivano dalle indagini della magistratura e dai processi. Questa seconda batteria di strumenti ex ante ed ex post contro l'inevitabile o comunque tendenziale travalicare del politico e del pubblico amministratore, alla prova dei fatti, più nelle democrazie moderne il ruolo del pubblico si è esteso, appare sempre più come uno stuzzicadenti di fronte a un enorme carcinoma. E quindi io, nel tempo, che pure appartengo a una cultura convinta di questo tipo di garanzie ex ante e sanzioni ex post, ho iniziato a pormi il problema se non fosse anche questa una generosa, molto ben motivata e argomentata nei nostri ordinamenti, ma un po' un'illusione anch'essa. Allora c'è una terza scuola, alla quale io poi per vecchiaia sono arrivato nella vita, e anche per disperazione. La terza scuola, diciamo quella che viene dall'analisi dei marginalisti austriaci, quindi Mises, Hayek, e che poi è sviluppata nel secolo scorso, nel Novecento, da studiosi come James Buchanan, come Northcott Parkinson, come William Niskanen, come Gérard Bélanger e come Ronald Winthrop. Che cosa fanno questi studiosi? Fanno fare un passo avanti all'analisi in termini di teoria economica dell'attore pubblico e identificano i veri punti che identificano l'attore pubblico come attore economico, e cioè il fatto di poter agire nell'intermediazione di risorse in nome e per conto dei cittadini e col controllo di un politico pro tempore, ma in realtà, poiché agiscono senza concorrenza, possono estrarne al massimo il valore possibile per sé. Innanzitutto, il valore possibile per sé è quello che il proprio ruolo si eterna quanto più la fetta di risorse si estende, quanto più le procedure che si mettono a punto e che si decidono da parte del tecnico pubblico e del politico non fanno altro che confermare la necessità di averne interpretazioni dallo stesso tecnico pubblico e dallo stesso politico, e quindi l'inevitabile tendenza di apparati pubblici, in crescita inerziale è quella dell'aumento della discrezionalità, dell'aumento delle risorse intermediate, dell'aumento delle piante organiche controllate. Di fronte a questo, questa scuola economica propone che l'unico vero rimedio, non abbattendo le garanzie costituzionali ex ante e gli interventi della magistratura ex post, ma in realtà sia quello dell'avvento ogni tanto di un politico sanamente ispirato dal basso, che dica: abbiamo un'unica strada, quella di abbattere considerevolmente ogni tot tempo l'intermediazione pubblica, perché solo levando l'acqua a questo mulino pubblico, solo così otterremo che la quantità di illeciti, illegalità, interessi impropri nella ruota del mulino ogni tanto torni a un livello standard, accettabile, altrimenti incrementerà solo, perché si estenderà così tanto l'ampiezza delle sue funzioni che per quanti magistrati di buona volontà ci possano essere e per quanti cittadini di buona volontà nel svelare ciò che appare opaco e tangentizio, inutile dire che riusciremo a venirne a capo. Ecco, io appartengo senza dubbio oramai a questa terza strada. Mi rendo conto che è minoritaria nel nostro paese. Allora, abbiamo come ospiti Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto, che ha dedicato a queste vicende, anni e anni della propria vita, tanti libri e quindi è un esperto sul campo, per così dire. Lo ringrazio di essere qui con noi. Grazie Gianni. Buongiorno a tutti. Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere, vice direttore del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora Schiavi, lei ha scritto anche recentissimamente su il fiorire di queste vicende, l'opinione che se n'è fatta, stando sul ponte di comando insomma di un grandissimo giornale italiano, qual è? Un difetto ricorrente, non appena i partiti che agli occhi dei cittadini credono di aver perso peso perché siamo alla stagione dei tecnici, ma in realtà non è cambiato nulla, oppure casi molto eclatanti che dimostrano come anche formazioni lontane dalle vecchie pratiche, con la Lega voglio dire, col tempo sono diventate del tutto omogenee e se ne esce solo con le indagini dei magistrati, secondo lei? No, non se ne esce con le indagini dei magistrati, se ne esce anche con comportamenti personali coerenti e un po' corretti. 10 indagati, abbiamo scritto, nella regione Lombardia, tra assessori e consiglieri, non sono più considerabili fatti personali, semplicemente si tratta di un caso politico molto grave di cui la regione Lombardia sta dimostrando di non tenere conto e l'opinione pubblica ha diritto a sapere qualche cosa di più, ma soprattutto ha diritto ad una chiarezza politica. In questo momento c'è tantissima nebbia nell'aula del Pirellone, tanta nebbia che arriva anche agli insulti e soprattutto arriva a non rendersi conto di quella richiesta che tutti fanno, che ci sia quantomeno un atto semplice, immediato, per cui l'indagato sospettato di aver preso tangenti ha diritto di difendersi davanti ai giudici, ma ha anche il dovere di togliersi se occupa posizioni importanti e di rilievo. Il caso Boni, che ha investito la Lega, è l'esempio, diciamo così, forse più esplicito di questo imbarazzo. Un presidente del Consiglio regionale che resta nell'aula mentre si discute della mozione di sfiducia nei suoi confronti e non sente l'esigenza di dimettersi da quell'incarico per difendersi meglio. Ecco, c'è secondo me una mancanza di rispetto nell'opinione pubblica e anche delle istituzioni e soprattutto oggi devo dire che c'è un arroccarsi in una difesa che è assolutamente assurda. All'estero per un compito in classe copiato ci sono ministri che si dimettono per potersi difendere e poi rientrare a testa alta nella politica. Da noi invece si usa la politica per potersi difendere, per poter occupare ancora un posto e avallare quel sospetto molto forte nell'opinione pubblica che si fa politica per rubare e si ruba per fare politica. Ora nel frattempo è uscita la conferma, inizia a uscire anche sulle agenzie e sulle televisioni, ha rilanciato la notizia che Alberto Musi, che vi dicevo dopo essere stato candidato per il terzo polo, per il polo della nazione, sindaco di Torino, è consigliere comunale dell'UDC, è rimasto nel consiglio comunale della città e la conferma è stato fatto oggetto di un agguato nel cortile di casa sua via Barbarò, quindi in pieno centro a Torino, 4 colpi di pistola alle molinette, appena ne sapremo di più vi informeremo. Barbacetto, invece qual è la tua opinione? È chiaro che i magistrati dovrebbero poter bastare, però l'impressione è come dire che non bastino proprio, poi naturalmente bisogna giustamente per i garantisti, poi bisogna aspettare gli esiti dei processi, poi i processi passano anni eccetera eccetera, nel frattempo ogni volta ci si divide tra gli amici del politico della propria coalizione, i nemici del politico della propria coalizione, le solite storie, ma nel frattempo le cose peggiorano invece che migliorare. Sembra di capire che ormai non si può più parlare di casi isolati, ma che ormai si debba fare un discorso di sistema, cioè c'è nel nostro paese, in maniera diversa che nel resto del mondo, cioè la corruzione, un certo grado di corruzione diciamo, è fisiologico e c'è dappertutto. Però mi pare di capire che ormai possiamo parlare di un'anomalia, anzi ormai, da 20 anni possiamo parlare di anomalia italiana. Sì, è un ormai molto lungo, no? Sì, e cioè una caratteristica che ahimè ci contraddistingue anche dal resto dell'Europa, sia come reazioni a quando vengono scoperti i casi di corruzione, sia come ampiezza, come penetrazione, come proprio numero e gravità dei casi di corruzione che avvengono. Questo perché? Perché c'è probabilmente, al di là, oltre alle ragioni culturali, storiche, tutto quello che vogliamo, c'è un sistema dei partiti nel nostro paese che si è costruito in maniera non virtuosa, anzi, che si è che è cresciuto nei 20 anni che ci dividono, diciamo, dalla fine della cosiddetta Prima Repubblica. È cresciuto un nuovo sistema dei partiti in cui il peggio in cui è continuato a crescere il peggio della Prima Repubblica, però in una maniera fai da te. Qualche tempo fa, pochi giorni fa, sono andato a intervistare il cassiere del PD, no? Partito della Prima Repubblica, che è riparato ormai da 20 anni in Alta Savoia, e lui mi diceva: ai nostri tempi, parlando della Prima Repubblica, sarebbe stato impensabile questo fiorire di ruberie locali, no? Diciamo, nei periferiche. Perché noi cassieri centrali dei partiti non potevamo tollerare che si rubasse dentro il partito, cioè le tangenti, i finanziamenti pubblici dovevano passare da noi e non si poteva permettere che ciascuno si facesse il suo sistema fai da te. Ecco, io temo che nella cosiddetta Seconda Repubblica ciascuno possa farsi dentro i partiti un suo sistema di finanziamento fai da te, vendendo i propri piccoli appalti, cercando di crescere, cercando di far carriera in questa maniera, e poi via via andare a occupare posti sempre più importanti dentro i partiti e dentro le istituzioni. Ma ti dirò che non so se credere troppo, e non per mettere in dubbio la buona fede dell'ex cassiere riparato oltre frontiera, ma perché nella mia esperienza, certo non maneggiavo soldi, ma io sono stato in un'altra vita 7 anni portavoce nazionale di un partito della Prima Repubblica, del Partito Repubblicano, negli anni 87-94. Mi sono beccato poi quindi l'ondata travolgente che della fine di quel sistema, e noi abbiamo faticato tantissimo per portare il Partito Repubblicano all'epoca fuori dal pentapartito con il 7° governo Andreotti. Ci abbiamo messo 3 anni a convincerli, i nostri parlamentari, che bisognava farlo, perché tutto puzzava abbastanza, per così dire. E una volta riuscitici, comunque, anche il Partito Repubblicano è stato travolto poi dall'ondata delle indagini. Io sono uno di quelli che ha preso la decisione di fare una campagna elettorale di cui non mi pentirò mai abbastanza, ma ammetto la mia colpa, il cui teaser era il partito degli onesti, che si prendeva un slogan da, era una cosa che affondava la sua radice di tradizione nella battaglia antidemocristiana dei primissimi anni della Repubblica. Detto tutto questo, io ricordo perfettamente quando nell'apprendere dolorosamente che non uno ma diversi erano i casi anche di repubblicani coinvolti, molte volte noi non ne sapevamo assolutamente niente. Questo è il punto vero. Ricordo in particolare una vicenda che da torinese mi colpì tantissimo, perché la Fiat pagò per varianti di un passante ferroviario i consiglieri comunali della città, sto parlando di moltissimi anni fa, e arrivò a pagare persino quelli repubblicani, cioè del partito che eleggeva la sorella dell'avvocato Agnelli senatore a Torino, senza che noi, che eravamo a Roma, ne sapessimo un accidente di niente. Ci imbufalimmo come iene con l'avvocato Agnelli e con il dottor Romiti, perché ovviamente non c'era alcuna possibilità che un solo cittadino torinese credesse all'ipotesi che la Fiat avesse pagato tangenti e consiglieri repubblicani torinesi senza che il vertice nazionale del partito lo sapesse. Ma comunque può essere che noi fossimo troppo fessi anche come leader nazionale di partito, che quindi tutti ci aggirassero. Io ho capito che non bisogna mai escludere le ipotesi più autodolenti. Allora, nel frattempo leggo la notizia: consigliere comunale Alberto Musi ferito a colpi di pistola, le condizioni di Muso, si apprende la fonte ospedaliera alle Molinette, sono gravi. Il consigliere comunale è stato sedato e intubato nel reparto di rianimazione, secondo una prima ricostruzione della polizia. Contro Musi, che esercita la professione di avvocato, è stato sparato più di un colpo di pistola da una persona che poi è fuggita. L'aggressione, appunto, come vi avevo detto, in via Barbarù, nel cortile del suo palazzo, stamattina presto, nel centro del capoluogo piemontese. Eccoci tornati, qualche flash sul perché continuare a stare ancora, come avete deciso e confermato a migliaia con i Doors in inizio alla fine. Ieri è uscito il rapporto straordinario, sono 274 pagine del Fondo Monetario dedicato all'aggiornamento della crisi greca, e c'è una frasetta che dice che in caso di lento adempimento gli obblighi internazionali contratti dal governo greco, e la prospettiva di un fallimento dell'economia complessiva e del quanto contratto con i debitori privati e pubblici, con i creditori della Grecia, torna di assoluta attualità. In quel caso il Fondo Monetario mette in questa frasetta, esclude di poter far parte di qualunque piano di salvataggio successivo. Nel frattempo polemiche in Olanda, perché il più autorevole centro studi economico del paese, il CPB, ieri sono uscito con un esame di ciò che va tagliato quest'anno nel bilancio olandese, 16 miliardi almeno, che fa scandalo sui giornali olandesi, perché la condizione olandese viene paragonata a quella dell'Italia e della Spagna, e gli olandesi insorgono, però i fatti sono questi. Nel frattempo il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, tornato ieri su Reuters a dire che bisogna spezzare il vincolo che lega i sistemi bancari nazionali e gli acquisti di titoli di debito. Troppi titoli di debito sono tornati a essere acquistati dalle banche in questi mesi. È chiaro che l'obiettivo della polemica è l'asta di liquidità, le aste di liquidità di Draghi, che ottengono esattamente questo effetto, ed è per questo che gli spread scendono. Ma il presidente della Bundesbank dice che questo è un errore, perché distoglie le banche dalla necessità di doversi ripatrimonializzare e dare denari all'economia reale. Non tenere in piedi gli stati garantendogli la copertura di ogni emissione in quest'anno. Argomenti che invece Wolfgang Münchau, nel suo editoriale su Financial Times Deutschland, riconosce solo in parte. Dice che in larga misura le obiezioni della Bundesbank sono invece sbagliate. Polemiche in Germania, perché il presidente dell'FDP, che nelle prossime elezioni in Nordrhein-Westfalia rischia per l'ennesima volta di sparire, che quindi alza la soglia del suo tono nazionale, per così dire, a tutela della politica nazionale. Ieri il presidente del partito, che è anche il ministro dell'economia Philipp Rösler, ha proposto di differenziare i tassi di interessi all'interno dell'eurosistema per quantità di esposizione di ciascuna banca centrale verso l'altra. È chiaro che è un criterio per dire ai tedeschi: noi non vogliamo che Bundesbank continui nell'attuale politica di superesposizione nel sistema target 2, sono quasi 600 miliardi di euro di esposizione tedesca. Ultima cosa, in Francia il sondaggio di ieri di Le Monde su chi sta più avanti di chi nelle elezioni presidenziali, primo turno il 22 di aprile, che possono significativamente cambiare la cronaca europea. Allora, nel sondaggio di ieri abbiamo Sarkozy al 27,5% primo turno, Hollande in vantaggio ma di un solo punto, 28,5%, poi Marine Le Pen 15%, il centrista François Bayrou 13% e il candidato di estrema sinistra, che invece guadagna nei sondaggi a spese appunto di Hollande, e c'è Jean-Luc Mélenchon, che ha l'11,5%. Molto bene, torniamo all'argomento di cui ci stavamo occupando. Sentiamo subito due telefonate di ascoltatori. Stefano da Roma. Buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno Giannino. Sì, ascoltavo un attimo la sua trasmissione, come faccio spesso la mattina quando sono in viaggio per andare al lavoro. Sentivo un po' ancora di queste tangenti, di queste cose. Allora, io penso soltanto una cosa, da elettore e cittadino italiano. Cosa dobbiamo pensare? Allora, lo Stato ci chiede grossi sacrifici per ruberie che hanno fatto e che continuano a fare. Dove ti giri c'è una tangente, Puglia, Lombardia, destra e sinistra, io sono un elettore che ha sempre votato. È questa che è l'analisi semplicemente della lettura di quello che ci propongono i fatti, che cosa la induce a pensare? Che dice lei? Che farebbe? No, no, io, allora, guardi, io che farei, non faccio il politico, insomma non è il mio mestiere, no? Io faccio l'imprenditore. Io vedo che adesso c'è questo signor Monti, che ad oggi ci ha promesso tante cose, se l'avesse promesso Berlusconi avrebbero impiccato, ok. A questo punto che cosa fa? Questo però tende a farlo. Continua a mettere tasse, non fa alcun taglio alla politica, perché non ne ha fatto uno che uno, ok? Promette una crescita non so da quanto tempo, e ad oggi dobbiamo crescere, ora la crescita, dobbiamo crescere, d'accordo, belle parole. Dopodiché che cosa fa? Va a fare una riforma del lavoro dove abolisce l'articolo, praticamente, vabbè, camuffando l'articolo 18, che non me ne, voglio dire, è una cosa irrisoria, ok, allora mi dica se ha un senso. In una di queste riforme che è andato a fare si dice: se un'azienda ha problemi economici può licenziare i lavoratori, ok? Io le parlo da imprenditore, può licenziare i lavoratori, le dà da 15 a 27 mensilità, ma se un'azienda ha problemi economici, i soldi per dare le mensilità, mi dice dove li prende? Ma anche il mio cane fa 1 più 1, fa 2, allora queste persone, voglio dire, e questo qui sarebbe uno stratega dell'economia italiana? Va bene, ma Stefano, legittima critica a Monti, guardi, rinvio all'articolo, ho scritto un articolo oggi sul Messaggero, l'ho messo già sul sito, sull'articolo 18, oggi non parliamo di questo, non parliamo dei 50 casi che sono la media giudiziale in Italia, l'articolo 18, mi sembra che sia proprio una cosa iper totemica in questo paese di bloccarci sull'articolo 18. Detto questo, guardi, Monti e il suo programma di governo, dovuto al fatto che il governo precedente ci aveva portato dritto a essere il detonatore dell'euro, è un conto. Altro conto è dire il difetto di fondo, che anche secondo me è quello di non incidere a fondo nella spesa pubblica con un piano pluriennale di diminuzione fiscale, che è la stessa via seguita dai grandi paesi che hanno avuto successo nella via delle riforme quando erano in ginocchio, cominciare dalla Germania, seguire con la Svezia, seguire con la Polonia e così via. Quando si chiede, si rivolge questa domanda a componenti del ministro del governo Monti, la risposta che danno è, alcuni di loro dicono, noi siamo d'accordo con quello che dice Giannino, però il piccolo problema è che l'orizzonte che ci è stato assegnato è troppo breve per consentirci davvero di dire che in termini pluriennali noi dovevamo ribaltare quello che abbiamo ereditato. Quello che abbiamo ereditato è la costruzione di avanzi primari fatti preponderantemente per via di aumento della pressione fiscale più che di incisioni sulla spesa corrente. Noi in pochi mesi ci permettessimo di dire l'esatto contrario e soprattutto stabilendo un percorso pluriennale incisivo genereremmo la reazione della politica, l'esplosione e la separazione di PD e PDL. Questa è la loro fredda analisi. Io comunque non sono d'accordo, perché credo che in questa prospettiva l'Italia va in asfissia economica, ma oggi stiamo parlando di un'altra roba e la cosa di cui stiamo parlando mi induce a dire che in realtà l'abbattimento del perimetro della spesa serve per diminuire le occasioni, ma che altrimenti le occasioni sono inevitabili, perché il funzionario, il politico tendono a fare questo nella vita e non perché siano solo italiani. Gli italiani tendono a farlo di più perché siamo più corporativizzati, siamo più frazionati nella politica, più instabili, e quindi il potere di veto massimizza in questo la sua cosa. Però secondo me è una tendenza un po' generale che deriva dal fatto che il monopolista pubblico estrae valore per sé, al di là di tutte le nostre nobili intenzioni e convinzioni, che invece si dovrebbe occupare dell'interesse pubblico. Riccardo da Firenze, prego Riccardo. Sì, buongiorno. No, io volevo dire che sì, chiaramente la politica ha delle grandissime responsabilità, però il paese in generale è un paese, secondo me, a bassissima moralità. Abbiamo un livello di moralità molto basso. Ma tu sei convinto che la moralità degli italiani è questa specie di contraddizione che sta nel nostro DNA rispetto a tutti gli altri paesi, agli altri popoli? Io, secondo me... Ma molti la pensano così, eh? Delle responsabilità grosse noi le abbiamo. Nel nostro piccolo ognuno, alla fine, l'evasore... il corruttore siamo noi, perché se c'è tantissima evasione, tantissima corruzione in Italia, non è che viene da 10 persone che ma aspetta, però un conto è dire siamo atavicamente, abbiamo letto troppo Guicciardini, insomma, per così dire, abbiamo una specie di tara atavica, perché ci porta all'anomia sociale molto più degli altri paesi avanzati. L'eredità di questo mitico libro scritto negli anni 50 su un paesino del sud di Benton, no, sul familismo amorale, mai libro fu più sopravvalutato, secondo me, ma è chiaro che viene sposato dalla mia vecchia cultura. Io sono, dico, vecchia cultura azionista repubblicana, convinta che c'era era un'Italia da rifondare moralmente, noi naturalmente eravamo i depositari dell'etica superiore. Poi c'erano gli italiani pecore meridionali che andavano verso l'Africa, ecco, più o meno è il fondamento di ogni teoria virtuista questa roba qua, sempre se stessi depositari della virtù più elevata. Poi mi sono detto che era un pochino tendenzialmente questa posizione, che pure ha ispirato tanti sviluppi positivi della storia italiana, è autrice del vincolo europeo, ci ha ancorato alla parte più avanzata del mondo, però c'è sto difetto di fondo che crede di essere l'eccezione agli italiani morali. A me questa roba non mi convince più troppo. Dico, cosa diversa è, ci sono quei milioni di italiani che dici tu, Riccardo, ma perché si sono auto-organizzati per convenienza a uno Stato che così estesamente, 52%, pratica con propri prezzi, tariffe, aste, gare, bandi di attribuzioni, regolamenti eccetera, discrezionalmente decisi le condizioni perché milioni di italiani a quel punto è chiaro che se ne approfittano, perché ottengono risorse tutte a bassa produttività e fuori dalla concorrenza per farsi i cavoli propri. Però il problema è che non lo avrebbero fatto se non ci fosse stata una macchina pubblica di questo tipo. Adesso basta con gli ascoltatori, con la mia chiacchiera, perché dopo il traffico andiamo immediatamente alla conclusione con le opinioni invece di Schiavi e Barbacetto. Eccoci tornati in studio e mi pare di capire, no, non vedo più perché c'è una comunicazione che resta aperta qui, una connessione regia, ma non ho capito di che si tratta. E allora chiedevo a Gian Giacomo Schiavi, dopo più di 20 anni di Mani Pulite e nella presunzione che davvero nel frattempo le cose siano peggiorate, molti degli appartenenti alla vecchia politica dicono ai nostri tempi si frangevano i codici per il partito, adesso lo si fa molto più estesamente in conto proprio. Però nella realtà ai lettori del Corriere, agli ascoltatori eccetera, che cosa realisticamente noi possiamo proporre come qualche cosa di cui sappiamo intravedere una risposta diversa, organizzata rispetto a quella che stancamente abbiamo visto riproporsi, ma invano, visto che gli episodi poi diventano così gravi e che poi, come nel Consiglio regionale lombardo, assistiamo poi a esponenti che vengono investiti dalle indagini che si danno del pirla in pubblico, microfoni aperti, come niente fosse, dicendo che non c'è nessun problema. Come si fa a dire alla gente c'è qualche cosa di nuovo che può restringere il fenomeno? Qualche cosa di nuovo è sempre quello che hai detto tu prima. La politica si dovrebbe occupare del bene comune e fare l'interesse pubblico. Diciamo che ci sono alcuni settori a esposizione tangentizia, e sono i settori della sanità, sono i settori dell'urbanistica, sono i settori dell'edilizia, sono i settori degli appalti per le discariche e del verde pubblico. E in questi settori c'è una carenza di controlli. I controlli vengono decisi spesso dai controllori, che scelgono uomini di loro fiducia e quindi allineati e coperti per non fare quei controlli che servirebbero. Non è possibile che si scopra che il San Raffaele, peraltro ospedale di alto livello, abbia un buco di 1 miliardo e tutto questo venga fuori assolutamente quasi per caso, quando la situazione è arrivata al limite. Bisognava attivare degli allarmi prima. E come non è possibile che alcune situazioni arrivino soltanto quando c'è la denuncia alla magistratura? Uno Stato o una Regione hanno dei sistemi di controllo e hanno dei sistemi proprio così per attivare subito il buon funzionamento di alcuni appalti. Purtroppo c'è anche questo altro aspetto, l'aspetto della burocrazia, che è ancora molto lenta, molto farraginosa e molto, diciamo così, complicata per attivare delle operazioni più veloci, più rapide. E soprattutto c'è un altro aspetto, l'aspetto che oltre a questa burocrazia, diciamo così, complessa, che forse abbiamo soltanto noi, avviene quello che oggi ogni assessorato si crea una nicchia di sottobosco, di sottopotere, e intorno a questa nicchia di sottobosco, di sottopotere, spesso si creano queste situazioni di corruzione diffusa. Oggi abbiamo detto forse è più diffusa di 20 anni fa, non credo, 20 anni fa era un sistema pazzesco, c'erano le quote distribuite, allineate per i partiti. Oggi ci sono casi personali che sicuramente indignano e fanno molta impressione. e valgono sia per il centrodestra sia per il centrosinistra, quello che è accaduto in Puglia per esempio, quello che è accaduto col caso Lusi. Diciamo che forse c'è una leggerezza estrema. Per fare qualche cosa, per cambiare, non si può dare soltanto alla magistratura il compito di intervenire, bisogna che la politica faccia un salto di qualità. Purtroppo questo salto di qualità non è stato fatto. Quando si dice dipende anche da noi, dipende da noi cittadini, beh, noi possiamo fare ben poco, possiamo denunciare, possiamo indignarci. In realtà proprio dovrebbe essere la politica che capisce che non è più aria, non è più il momento di comportarsi in questo modo. Il titolo del Fatto Quotidiano di oggi era Milano-Napoli-Bari, favori in corso. Mi sembrava un ottimo titolo. La domanda che faccio a Barbacetto per lasciargli la chiusura invece è questa: c'è il rischio secondo te che con la caduta, la fine della lunga epoca berlusconiana, che ha polarizzato per tanti anni, intorno anche ovviamente in primis alla magistratura e alle indagini e quindi a come le parti politiche prendevano le indagini della magistratura, perché è ovvio che finché Berlusconi era al centro dell'agone ed era l'obiettivo da disarcionare, non si poteva che stare, per chi era contro Berlusconi, contro la magistratura, con la magistratura per definizione. Oggi l'impressione è che invece nelle reazioni a caso Emiliano, insomma ai casi che riguardano poi il fronte ex opposizione di Berlusconi, oggi unito al PDL nel sostenere il governo Monti, per poco ma è così, induca tutti a un relativismo delle reazioni più forte. Questa impressione è sbagliata, perché è un rischio in questo caso secondo me, oppure no? Tu che pensi, Barbacetto? No, forse non è sbagliata la tua impressione, però io credo che il fatto che per ora Berlusconi sia un po' in disparte ci ha mostrato che il problema non era solo Berlusconi, cioè che c'è un virus che ha contagiato l'intero sistema dei partiti, maggioranza e opposizione, che si mostra proprio in tutti questi casi che leggiamo sui giornali giorno per giorno. È proprio la selezione della classe dirigente dei partiti che è fatta male, perché, per fare un esempio, al nord, nella civile Milano, dentro il PD, Penati riesce a diventare l'uomo più importante del partito e ad arrivare alla segreteria politica di Bersani a Roma grazie al fatto che è l'uomo che riesce a tessere più relazioni e a portare a casa più soldi. Allora, se questo è il tipo di selezione che viene fatta dentro i partiti in questo paese, allora vuol dire che proprio non va così, e allora forse siamo alla vigilia di un collasso, come nel 92 il sistema dei partiti collassò, probabilmente anche oggi siamo forse alla stessa vigilia. Ecco, questo per esempio come conclusione la prendo in pieno. Penso anch'io, come ha concluso Gianni Barbacetto adesso, che la fine di questi 17 anni di Seconda Repubblica, che si incardina con questo passaggio di governo tecnico e con le sue riforme, sia un passaggio a qualcosa di nuovo. Vedete che ci stiamo tornando tutti i giorni alle modifiche dell'offerta politica, e questa di sistemi adeguati anche a impedire che di così dire l'acqua sporca passi per mulini adulterati politico-amministrativi, sicuramente diventa una questione. Io continuo a dirvi, cari liberali che rimanete senza espressione, che dovrete riflettere su come con politici credibili che sostengano cose di questo genere debbano poi diminuire spesa pubblica e tasse, che è il difetto fondamentale. Posti anche la riforma del lavoro di cui parleremo domani, perché senza contributi più bassi e la moltiplicazione del lavoro non ci sarà. Comunque è una riforma piuttosto di quello che sembra. A domani, grazie a Barbacetto e a Schiavi.